Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che siete da subito sintonizzati su questo nuovo programma di Radio 24, il nuovo palinsesto di Radio 24, vi informo sin da ora, intanto vi ringrazio e siete anche, diciamo, fortunati di cogliere sul nascere questo nuovo spazio che si chiama Effetto Notte. Vi informo che questo è l'appuntamento, sarà l'appuntamento quotidiano, serale, per voi spero diventi un appuntamento fisso e imperdibile, con un quadro il più possibile esaustivo, chiaro, della giornata. Se non volete perdere un colpo con quelle che sono le notizie principali sul finire della giornata, se avete perso appunto qualche fatto principale, qualche informazione, sappiate che potete recuperare in corner a questo punto a Effetto Notte tutte le sere. E quindi a questo punto vediamo quali sono state le notizie principali del giorno. C'è stata la riunione dei leader del PDL, Berlusconi si è riunito quindi coi suoi, ha chiarito tutto, dice, annuncia sì ai decreti IMU e IVA, poi però si andrà a votare. E con la situazione di grave incertezza politica, Piazza Affari chiude in rosso, anche se riduce le perdite, timori per un downgrade, per un declassamento dell'Italia, industriali e sindacati invocano insieme la stabilità di governo. Appello per l'omicidio di Melania Rea, 30 anni a Parolisi, questa è la sentenza. E poi la Coca-Cola che perde lo scettro perché è Apple il marchio più influente nel mondo. Iniziamo quindi ad approfondire man mano queste notizie, parliamo subito, sapete, la notizia dominante di oggi, ma naturalmente di questi giorni, è quella della crisi di governo innescata dalle dimissioni dei ministri, dei parlamentari del PDL, uomini e donne del PDL che si sono riuniti oggi pomeriggio con Berlusconi. Intanto la patata bollente però passa in mano al presidente del Consiglio Enrico Letta, che insieme, che mercoledì chiederà la fiducia alle Camere, insieme con il Presidente della Repubblica Napolitano dovrà un po' decidere quale linea prendere, quale linea seguire. E quindi Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Vincenzo, oggi sarà stata ovviamente anche oggi una giornata convulsa, che indiscrezioni ci sono sul il percorso che sta facendo Letta? Sì, buonasera ai nostri ascoltatori, ma un Enrico Letta in attesa in queste ore di capire fondamentalmente in che direzione andrà il Popolo della Libertà, perché in effetti poi le indicazioni arrivate da Berlusconi non sono chiarissime, in alcuni casi anche contrastanti, quindi se lo strappo del Cavaliere è di fatto totale o se ci sono ancora dei margini per recuperare la situazione. Ecco perché non è ancora certo che mercoledì il Presidente del Consiglio Letta ponga la questione di fiducia dopo aver fatto il suo intervento in Parlamento. Pochi minuti fa il ministro Franceschini ha confermato proprio questa evoluzione. Franceschini ha detto: ci presenteremo in Parlamento, ascolteremo il dibattito e poi valuteremo se porre la fiducia, fiducia che è già stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri. Quindi ricordiamo gli appuntamenti di Letta: la mattina sarà al Senato, il pomeriggio stai parlando alla Camera. Di domani, Vincenzo? Di domani, martedì? No, mercoledì, di mercoledì quando chiederà la fiducia. Mattina, sì, la mattina quindi al Senato, il pomeriggio alla Camera, per un discorso che dovrebbe mettere uno dopo l'altra le priorità del Paese. Allora ricordiamole: l'IMU, il controllo dei conti pubblici, ma soprattutto la legge di stabilità ed ancora l'emergenza occupazione con tutto ciò che ne consegue, anche gli ammortizzatori sociali, e poi un punto che è stato ribadito più volte, proprio la credibilità e il ruolo dell'Italia in Europa. Ricordiamo che dal prossimo giugno l'Italia assumerà la presidenza dell'Europa e fatto questo, Roberta, molto molto importante, e soprattutto il Quirinale guarda a quell'appuntamento e vuole che il governo arrivi a giugno con un governo autorevole. Quindi tutti elementi questi potrebbero diventare un problema per il Paese, tesi questa proprio di Letta, di Palazzo Chigi, qualora invece si mettesse fine in modo anticipato all'esperienza del governo. Ricordiamo soprattutto i decreti di conversione dell'abolizione dell'IMU. Quindi Letta è di fronte a queste scelte, Scelte però concordate con il capo dello Stato, molto attivo in queste ore. Le priorità per il Paese non cambiano, secondo Napolitano le sue priorità sono legge di stabilità, ma anche la legge elettorale, non si può tornare al voto. Col Porcellum. Ha detto più volte infatti Napolitano con il Porcellum, prima quindi di questi due appuntamenti, ricordiamo legge di stabilità e legge elettorale, secondo il Quirinale sono le priorità per il Paese. Grazie Vincenzo Miglietta, e sicuramente lo sono, non si può andare a rivotare con questa legge elettorale, se no ci si ritrova nella stessa situazione. La legge di stabilità è una tappa fondamentale perché il Paese poi possa andare avanti anche con lo sviluppo, con il lavoro eccetera, ma dicevamo c'è stata questo pomeriggio l'assemblea del PDL con il suo leader Berlusconi, che ha detto tasse e stabilità poi al voto. Il PD però dice che è una proposta irricevibile questa, ma con Elisabetta Fiorito, Elisabetta sempre in diretta da Roma, intanto si è parlato del punto 2 dopo le dimissioni, qual è la prossima tappa, si è detto? Ma guarda, Roberta, è stata un'assemblea caotica perché c'è stata una proposta che sicuramente non sarà accettata, cioè Silvio Berlusconi chiede ad Enrico Letta di votare i provvedimenti su IMU, IVA, la legge di stabilità e poi dopo 7 giorni andare al voto. Continua a dire che la nostra esperienza di governo è finita e comunque è arrivato a Montecitorio con le dimissioni dei parlamentari e anche dei ministri, che poi però ha rifiutato almeno quelle dei parlamentari dicendo non le presentate, a me basta il gesto che mi siete stati vicino. Ci sono state invece quelle lì dei ministri e dei sottosegretari e poi ci sono stati mugugni, proteste, ecco, quei dissidenti, quella di Fabrizio Cicchito, intanto c'è da registrare anche uno scontro tra il vicepremier Angelino Alfano e il direttore del giornale Alessandro Sallusti, autori di un editoriale sui presunti traditori di Berlusconi. Alfano ha tonato, stop al metodo Boffo, ricordiamo l'ex direttore dell'Avvenire, oggetto di una campagna denigratoria, e Sallusti ha replicato non ci lasceremo intimidire. Quello che ci è sembrato che la spaccatura tra Falchi e Colombe, queste spaccature, questi mugugni anche all'interno dell'assemblea del PDL decretano un po' la fine di quel partito monolitico berlusconiano attorno al suo leader. Comunque abbiamo sentito Michela Biancofiore proprio dopo l'assemblea, sentiamo. Direi piuttosto bene, anzi direi molto bene, mi è sembrato un clima di grande unitarietà che è risolto ovviamente dagli incontri precedenti avuti dal presidente Berlusconi. Mi sembra lui molto tonico, molto convinto della linea intrapresa come d'altronde tutti noi, e credo che sia l'unica strada quella di restituire la parola agli elettori, perché le maggioranze vengono date dagli elettori nelle urne e non da improbabili governi di stabilità che poi si dimostrano non essere di stabilità. Elisabetta Fiorito, Biancofiore sempre tra i fedelissimi, no? Era tranquilla ed era drastica anche sulla scelta fatta, non aveva nessuna titubanza. Sì, lei il sottosegretario ha detto io ovviamente le dimissioni non le ho ritirate, lei è molto chiara, dice no ma noi vogliamo semplicemente questa abolizione dell'IMU e il mancato innalzamento dell'IVA che ricordiamo dovrebbe passare dal 21 al 22% e poi si va a votare. Io poi le ho anche chiesto ma il Porcellum, lei mi ha detto io ho un'opinione personale, l'unica cosa che non funziona con il Porcellum è il fatto che le candidature vengano scelte dall'alto, allora forse bisognerebbe modificare questo, ma insomma non si capisce ancora come si muoverà il PDL mercoledì quando Enrico Letta andrà alle Camere. La fiducia. Elisabetta Fiorito, grazie, intanto sei stata chiarissima per quello che al momento si può desumere e capire da quello che sta accadendo. Per quanto riguarda invece l'altra grande forza della maggioranza, il PD, Giovanni Minoli oggi in un'altra trasmissione che è iniziata proprio oggi col nuovo palinsesto di Radio 24, Mix 24, ha intervistato il segretario del PD Epifani, che ha sottolineato che non si accontenteranno quel del PD di andare a cercare in giro parlamentari uno per uno per fare un qualunque governo, un governicchio in pratica. No, il governicchio vuol dire no a un governo che trova un po' di voti di transfughi e vive una vita stentata. E c'è un'altra possibilità? Lo vedremo dopo mercoledì. Mercoledì è il giorno della verità tra Senato e Camera, e soprattutto al Senato lì si capirà cosa succede. Ma lei si aspetta una rottura dentro il PDL? Ma vedo che c'è una grande discussione al loro interno. E anche gli industriali e i sindacati naturalmente hanno invocato la stabilità. Un grido d'allarme sui rischi che potrà comportare la crisi di governo e un richiamo alle forze politiche affinché agiscano con responsabilità è di nuovo il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a far sentire la sua voce e a mettere in guardia contro l'instabilità. Se non siamo capaci di darci delle soluzioni, l'Europa è pronta a commissariarci. Bisogna fare presto perché i risultati li stiamo vedendo, gli spread, le borse che impazziscono. Bisogna fare presto. Fondamentale per Squinzi l'approvazione della legge di stabilità, che se si dovessero sciogliere le Camere rischia di diventare un pateracchio. Preoccupazioni condivise dai sindacati che in un documento comune chiedono un vero governo del Paese, annunciano iniziative di mobilitazione. Il leader della CISL Bonanni. Bisogna in Parlamento che ci sia una responsabilità rapidissima che ci dia un nuovo governo. Le elezioni non ci interessano, ci fanno perdere solo soldi. I sindacati parlano anche di irresponsabilità di chi ha provocato una crisi per vicende personali. Susanna Camusso, CGIL. Bisogna avere grande rispetto delle istituzioni, le istituzioni non si possono e le regole del paese non si possono mai piegare a se stessi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo ovviamente l'Europa continua a guardarci e la Germania in particolare, che invia dei chiari segnali all'Italia. C'è stata nel pomeriggio questa definita affettuosa telefonata tra Angela Merkel e il Presidente del Consiglio Letta. La Merkel ha ribadito l'auspicio per la stabilità politica della penisola, ha detto per la continuità nell'azione di governo. Poi da Bruxelles la Commissione europea ha dichiarato di seguire attentamente gli sviluppi della crisi politica italiana. Per il rispetto del processo democratico interno non facciamo però commenti, questo ha aggiunto il portavoce. E l'agenzia di rating Fitch nel frattempo, dal canto suo, ha messo in guardia da inneschi negativi per il rating, cioè ha un po' fatto intuire che si potrebbe l'Italia rischiare un declassamento per quanto riguarda la sua affidabilità finanziaria. E una notizia naturalmente non positiva è che da domani ci sono i rincari, aumenta l'IVA di un punto, quindi dal 21% al 22%, il pieno di benzina costerà di più. Poi questo cercheremo di approfondirlo, anche questo aspetto, sembra che dovesse aumentare una ma non l'altro, però aumenterà anche la benzina 1,5 centesimi in più per la verde e 1,4 centesimi in più per il gasolio. E domani sulle conseguenze operative per le famiglie e le imprese della crisi di governo si soffermerà anche il Sole 24 Ore, che sarà in edicola regolarmente. La borsa, che conseguenze ne ha tratte la borsa? Piazza Affari ha chiuso in calo ma in recupero però rispetto ai minimi della seduta. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dell'1,2%, appesantito dai timori ovviamente, abbiamo detto, della situazione politica. Brutta giornata in borsa soprattutto per Mediaset, come era comprensibile, peggiore tra i titoli a elevata capitalizzazione. Il Biscione è partito male dal mattino, ha chiuso in calo del 4,5% tra forti vendite nel finale di seduta. Meglio però gli altri titoli della galassia berlusconiana: Mediolanum meno 1,9%, Mondadori un più 1,8%, con poi un'accelerazione in chiusura. E siamo con questo arrivati alla cronaca. C'è stata la sentenza poco fa in serata, la sentenza d'appello sul caso Parolisi per l'omicidio di Melania Rea. Sapete, uno di quei casi sulla scia dei femminicidi che più ha tenuto l'opinione pubblica col fiato sospeso, forse uno dei casi anche più contorti. Il femminicidio, vi ricordo che è una strage costante in Italia, una donna ogni due giorni. E c'è in diretta qui in studio Roberta Pellegata. Roberta, quindi questa sentenza è a 30 anni, è una specie di sconto, non tanto meno dell'ergastolo, insomma, però rispetto all'ergastolo, no? Sì, buonasera. Sì, la sentenza è attenuata per Salvatore Parolisi, che, lo ricordiamo, è stato condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea, uccisa con 35 coltellate il 18 aprile 2011 nel bosco di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo. Dicevi, 30 anni, questa è la sentenza che era attesa nel pomeriggio ma che è arrivata in serata circa 40 minuti fa della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila. Ricordiamo che Parolisi, ex caporal maggiore, per quel delitto per il quale si è sempre dichiarato innocente, in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Invece la sentenza di oggi, che è arrivata dopo 9 ore di camera di consiglio, ha concesso, come dicevi, a Parolisi una pena minore, una pena attenuata. Questo perché? Perché la Corte non ha ricordato riconosciuto l'aggravante di vilipendio. Inoltre è stato riconosciuto a Parolisi lo sconto di pena di un terzo per aver scelto di essere giudicato già in primo grado con rito abbreviato. Oggi in aula c'erano anche la mamma di Melania, il papà e il fratello. L'unico che in serata ha rilasciato un commento ai cronisti è stato il fratello Michele, che ha detto: Salvatore ha riportato questa ennesima condanna pesante e sebbene, ha detto Michele, resti sempre una sconfitta per la vita, resta una vittoria per la giustizia. Dunque soddisfatta della sentenza d'appello la famiglia di Melania, la famiglia della vittima. Grazie Roberta Pellegata. E poi c'è stata una nuova tragedia invece dell'immigrazione, come sapete continuano comunque gli sbarchi in Sicilia, infatti la cronaca lì ci porta per il naufragio di immigrati nel Ragusano con un bilancio pesantissimo di vittime. Arrivati a poche decine di metri dalla riva, sono stati costretti a buttarsi in mare dagli scafisti, che li frustavano e li minacciavano con coltelli. Così sono morte annegate 13 persone, quasi tutte eritree o somale. Erano circa 250 i migranti su un'imbarcazione di legno lunga poco più di 8 metri, che si è arenata sulla spiaggia di Mannarazza, vicino alla località balneare di San Pieri, nel Ragusano. Due scafisti sono stati fermati da polizia e carabinieri. A segnalare l'emergenza anche i turisti sulla spiaggia, come ha raccontato a Simone Spezia il sindaco di Scicli, Francesco Susino. Devo dire un grazie anche a questi turisti, a parte il fatto di aver allertato, ma anche di essersi dati da fare per dare i primi soccorsi. I feriti sono stati portati in ospedale al centro di prima accoglienza di Pozzallo. Tra loro c'era anche una donna incinta, ha spiegato a Cinzia Caserio Giovanni Gambuzza, responsabile del centro. Ci sono donne e bambini accompagnati, per adesso sono 50% uomini e 50% donne di nazionalità eritrea. Le condizioni di questi che sono qua sono abbastanza stabili, i medici li stanno visitando, una signora che era incinta l'hanno portata all'ospedale. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E direi a questo punto di chiudere questa parte del giornale radio un po' più in leggerezza. Parliamo di marchi. C'è un marchio strafamoso a livello planetario, bisogna dire, che perde però colpi nella classifica di quelli più influenti. Lo si potrebbe chiamare il sorpasso di Apple. Prima il successo dell'iPhone 5 con centinaia di clienti accampati fuori dai negozi e poi lo scettro dei brand più influenti del mondo. Apple scalza Coca-Cola nella classifica dei marchi più importanti con un valore di circa 98 miliardi di dollari. La società della mela supera così la capolista degli ultimi 13 anni, ferma solo, si fa per dire, a 79 miliardi di dollari. Una vera rivoluzione digitale, come spiega Manfredi Ricca, amministratore delegato di Interbrand Italia. Apple è un brand che ha ridefinito i canoni di estetica, di semplicità, di interazione. L'Italia è inoltre presente in classifica con aziende come Gucci al 38esimo posto, Prada al 72esimo e Ferrari al 98esimo. Dispiace vedere solo tre brand italiani. Le motivazioni sono diverse, ma attengono soprattutto alla dimensione relativamente ridotta delle aziende che compongono il nostro tessuto economico. Valentina Innocente, Radio 24, Sole 24 Ore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci qui, allora quali sono i titoli delle notizie principali di oggi? C'è stata la riunione dei leader del PDL con Berlusconi, lui dice si è chiarito tutto e annuncia che diranno sì ai decreti IMU e IVA, poi però si andrà a votare. E naturalmente con questa grave situazione di incertezza, con la crisi di governo, Piazza Affari chiude in rosso, riduce in chiusura le perdite, timore per un downgrade, cioè un declassamento dell'Italia da parte delle agenzie di rating, industriali e sindacati insieme invocano stabilità di governo. C'è la sentenza d'appello per l'omicidio di Melania Re a 30 anni a Parolisi. E poi la Coca-Cola che perde lo scettro, Apple è il marchio più influente nel mondo. E adesso direi di cominciare anche un po' ad approfondire con gli ospiti alcuni argomenti. Naturalmente quello che abbiamo detto centrale è questa crisi di governo per la quale anche l'Europa ci guarda con una certa preoccupazione. Sarina Biraghi, prima ospite di questa sera, direttrice del Tempo. Buonasera Sarina. Sarina, quindi Berlusconi ha detto mi rendo disponibile anche con i miei insomma a votare le ultime cose indispensabili, poi però l'esperienza di governo per noi è finita. Qualcuno in questi giorni, ovviamente immagino detrattori ma non solo di Berlusconi, l'hanno definito questo un gesto inconsulto e disperato. Che ne pensi? Beh, direi proprio di sì, un gesto molto emotivo, un gesto di pancia di una persona che vede avvicinarsi il 4 ottobre, il giorno della giunta che voterà per la decadenza, una persona che si ritiene innocente e quindi non accetta alcun verdetto. Per cui uno strappo che oggi direi Berlusconi ha provato a ricucire, ma come dire, lasciando parecchi interrogativi, cioè non è chiarissimo il progetto, cioè, o meglio, il progetto è chiaro fino a un certo punto, perché Berlusconi propone una strada molto stretta per Letta. In sostanza Berlusconi non vuole uscire, diciamo così, dalla politica o comunque da questa scena politica, vedendosi affibbiata il marchio di quello che ha favorito l'aumento dell'IVA e quindi anche il pagamento dell'IMU. Ma preferisce affibbiarlo a Letta, quindi propone a Letta: votiamo in una settimana il decreto, dopodiché si va al voto. Ma che significa? Che domani, mercoledì, Letta va a chiedere la fiducia per una settimana? Non credo che Letta possa accettare. Letta chiede la fiducia per un'agenda più lunga, un'agenda che arrivi come minimo almeno al 2014. Quindi, cioè, a questo punto chiede la fiducia e il PDL non dà la fiducia? O dà la fiducia e poi dopo una settimana rifà cadere il governo? Insomma, è abbastanza contraddittorio questa diciamo ricucitura dopo lo strappo. Ma a questo proposito, Sarina Biraghi, scusa, quindi io dicevo prima anche a Elisabetta Fiorito da Roma, ma il punto, una volta fatta questa mossa delle dimissioni, secondo te hanno immaginato, a parte votare l'IVA, l'IMU, eccetera, se ci saranno dei provvedimenti su queste cose, ma la mossa 2 quale sarebbe, secondo te? Ma io immaginavo che invece ci fosse una mossa, diciamo, più, questa è una mossa esclusivamente politica che secondo me rischia di non tenere effettivamente conto del paese, che invece chiede stabilità. Non c'è niente da fare, il nostro paese ha bisogno di stabilità, perché come abbiamo visto dai servizi che avete mandato in onda, l'Europa ci guarda, cioè noi siamo veramente nel mirino degli speculatori, dei mercati, degli altri paesi europei. Non possiamo deragliare da questo sentiero che è tracciato e che va rispettato, come pure non possiamo riandare al voto col Porcellum, perché credo che riandare al voto col Porcellum non faccia bene a nessuno, se non a Grillo, che in questo momento è l'unico che è sicuro di poter andare al voto col Porcellum e di ottenere probabilmente anche più voti di quelli che ha ottenuto prima. Per il premio anche di maggioranza, dice, a parte per la scontentezza dell'opinione pubblica. Fra l'altro era proprio lui quello che lo voleva affettare completamente all'inizio il Porcellum, poi ha capito che tutto sommato adesso, se dovessero cambiare le regole, potrebbe un po' rimetterci. Non andrebbe bene neanche a lui, ma ricordiamoci che una proposta di modifica del Porcellum c'è stata e è stato lo stesso PD a non accettarla a suo tempo, per cui è chiaro che adesso Grillo insiste ad andare col Porcellum perché comunque gli conviene. Abbiamo visto i risultati e certo però torneremmo probabilmente insomma in una situazione non tanto tranquilla. Forse il PD sperava più, credo, in una, come dire, in una fermezza degli esponenti del PDL alla scissione che ieri sembrava quasi, no? Quasi certa. Fatta. La scissione. E adesso, secondo moderati. Te, a che punto è questa scissione? Cioè, sono un po' rientrati? Secondo me sono un po' rientrati, anche se non sono finiti i malumori, perché mi pare che anche questa sera Cicchito, come l'altra sera, ha fatto un distinguo, cioè intendeva discutere ancora a proposito delle dimissioni congelate, fermate, riconsegnate, anche queste dimissioni, insomma anche il processo delle dimissioni strane, il processo di dimissione di massa addirittura, no? Quindi mi sembra che si siano fermate, perché mai come oggi sarebbe stato il momento giusto per andare avanti in questo percorso di dimezzamento di un partito, da una parte Forza Italia 2.0 e dall'altra è il gruppo dei moderati, dando no? delle speranze al PD, sembrava, no? Con questa decisione. Ma voglio chiederti una cosa, sì, voglio farti una domanda, scusa, sì. estremamente ad altissimo tasso maligno ti voglio fare, Sarina, ti forte. Devo allora, sottopormi a sì, questa sì. cosa. Secondo te, la malignità è mia naturalmente, secondo te i ministri che fino a, almeno prima di questa assemblea di oggi pomeriggio, dissentivano e dicevano no, noi al massimo, se proprio le cose vanno in questo modo, non entriamo in questa Forza Italia, non ci piace l'estremismo, noi non ci dimettiamo da ministri. Secondo te lo facevano proprio nell'ottica di un servizio al paese o per non perdere diciamo il sostegno sotto la poltrona, insomma, detto proprio... Così, era una curiosità. Insomma, è una malignità quale si può rispondere. Io credo che nessuno dei parlamentari di qualsiasi gruppo politico intenda perdere la poltrona. E quindi arrivare al 2014 significa conservarla almeno fino a quella data, secondo me. E quindi il paese, insomma, direi che i nostri politici troppo spesso lo mettono in secondo piano. Io ti voglio infine fare questa domanda, adesso sto per dire un'altra cosa terribile, quindi tenetevi forte, se c'è qualcuno insomma al di sotto dei 25 anni non ascolti, ma Alfano aveva detto, ha trovato questa espressione anche abbastanza folgorante, diversamente berlusconiano, no? Sì. Però ho visto, devo dire, circolare su alcuni social network, su internet, quella una vignetta cattivissima proprio. E c'erano Berlusconi e Alfano che si tenevano vicini e sotto c'era la scritta reo confesso, ma era staccato reo confesso. Questa secondo te è sempre quella mancanza di quid che molti attribuiscono a Alfano? È quella mancanza di quid che credo che Alfano si porterà per sempre, perché lo stesso suo presidente ha detto che Alfano mancava il quid. E su questa conclusione lapidaria, cara Serena Biraghi, io ti ringrazio e ti saluto, ti do appuntamento a una prossima puntata di Effetto Notte. Grazie direttrice del Tempo. Buon proseguimento. A te. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed ecco di nuovo i titoli delle notizie più importanti di oggi. C'è stata, avete sentito, l'assemblea nel tardo pomeriggio tra Berlusconi e i suoi, dice di avere chiarito tutto, che però l'esperienza governativa è finita e annuncia un sì ai decreti IMU-IVU per poi però andare a votare. La borsa ha naturalmente reagito non bene, Piazza Affari chiude in rosso con un meno 1,2%, ci sono dei timori per un declassamento dell'Italia e insieme industriali e sindacati invocano la stabilità. C'è la sentenza d'appello che si attendeva appunto per questa sera sull'omicidio di Melania Rea, a Parolisi dall'ergastolo, siamo passati invece ai 30 anni con un leggero sconto di pena. E poi la Coca-Cola perde il primo posto, lo scettro dei marchi più conosciuti, e Apple invece il marchio più influente nel mondo. Stavo guardando adesso le agenzie di stampa, sta uscendo qualcosa di misterioso, almeno è uscita proprio un flash di agenzia, Quirinale 2 punti su Segrate, delirante invenzione diffamatoria. Vediamo un numero 2 di questa agenzia, un seguito, quel che sarebbe stato riferito al senatore Berlusconi circa le vicende della sentenza sul lodo Mondadori è semplicemente un'altra delirante invenzione volgarmente diffamatoria nei confronti del capo dello Stato. Lo si apprende dall'ufficio stampa del Quirinale, ma ancora non si apprende esattamente quali sono i termini di questa misteriosa questione. Però intanto, a proposito di termini della giornata, vorrei chiedere al prossimo ospite il senso che si può dare, il significato non solo tecnico ma da rendere molto più chiaro e più del termine fiducia. Giuseppe Busia, esperto di diritto costituzionale. Ciao Giuseppe. E quindi mercoledì abbiamo detto che il Presidente del Consiglio Letta va a chiedere la fiducia alle Camere. Vogliamo spiegare semplicemente, non si tratta solo di dire sì, abbiamo fiducia in te, vai avanti, contiamo su di te. Che cosa significa in termini politici? Sì, tecnicamente è il rapporto che nei regimi parlamentari come il nostro deve legare il Parlamento e al Governo. In buona sostanza, il Governo per nascere e poi per continuare ad andare avanti ha bisogno del sostegno della maggioranza dei parlamentari. Questo sostegno si esprime con il voto di fiducia, che è appunto quello che, salvo imprevisti o novità, perché oggi il ministro Franceschini diceva vedremo, sentiamo il governo, sentiamo il discorso del Presidente del Consiglio, sentiamo il dibattito che segue, poi il governo decide se porre la questione di fiducia. E quindi si vedrà se ad esito di questo, per capire e fare esprimere la maggioranza e vedere effettivamente se anche il PDL, il vecchio alleato di governo, alcuni degli esponenti del PDL sostengono ancora l'esecutivo, Letta potrà chiedere, magari su una risoluzione che approva il suo discorso, votatemi la fiducia, cioè ci sarà una conta, perché poi la fiducia si vota per appello nominale, quindi ognuno deve dire sì o no alla fiducia, ci sarà una conta e se il governo avrà la maggioranza allora saprà che potrà continuare ad andare avanti. Questo rapporto che appunto ci deve essere si ha fin dalla nascita nei regimi parlamentari come il nostro, nel senso anche all'inizio della legislatura, quando nasce un nuovo governo, la prima cosa che deve fare dopo il giuramento è, entro 10 giorni, dice la Costituzione, presentarsi alle Camere e sulla base del programma che viene presentato ricevere questo voto. Se il voto è favorevole, cioè c'ha il governo alla maggioranza in entrambe le Camere, e sappiamo che il problema da noi in questa legislatura e soprattutto il Senato, allora può andare avanti e ha la certezza o la quasi certezza che i provvedimenti che approva potranno essere poi ratificati sostenuti dal Parlamento. A volte si rischia di chiederla un'altra volta e magari anche 3 volte, come in questo caso con Enrico Letta, vediamo appunto mercoledì. Grazie Giuseppe Busia. Grazie a te e a voi. Grazie. Tra l'altro, adesso parleremo questa sera, non è stiamo una sentendo governo, un po' di Piazza Pulita sulla 7, perché era stato annunciato che si sarebbe stata fatta sentire una telefonata intercorsa fra il presidente Berlusconi e un altro parlamentare. E allora un'agenzia di poco fa dice, si apprende da alcune agenzie di stampa, che durante la trasmissione Piazza Pulita in onda questa sera verrebbe messa in onda questa telefonata. Se fosse vero si tratterebbe di una gravissima violazione dei principi costituzionali, così dice l'avvocato di Berlusconi Ghedini. Le riforme aveva un vizio di fondo, un peccato originale. Adesso però c'è Marco da Milano, Piazza Pulita, giornalista del Fatto Quotidiano. Speravo di intercettare il momento in cui, proviamo magari più tardi, e invece adesso vi presento un altro ospite. Graditissimo naturalmente Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole. Ciao Alessandro. Buonasera a te, buonasera a tutti. Staccanovista dell'informazione. Alessandro, io prima di dirci magari quali saranno i titoli principali domani sul Sole, volevo chiederti questa cosa. Saccomanni, quando ha saputo, mi pare proprio sabato, no, delle dimissioni dei ministri eccetera, e tutti dicevano attenzione che adesso ci sarà anche Squinzi, un commissariamento dell'Italia da parte dell'Unione Europea, ci sarà un disastro, le borse reagiranno malissimo, gli speculatori ci fagociteranno, e invece il ministro dell'economia Saccomanni ha detto ma no, non vi preoccupate, era molto pacioso, molto tranquillo in questo, i conti pubblici sono a posto, non succederà niente. Dobbiamo essere così ottimisti? Sì, è giusto che sia così, in questo senso. Attualmente i conti italiani non danno situazioni di particolare crisi, nel senso modello Grecia o modello Spagna nel caso della crisi bancaria o Portogallo. Noi abbiamo ancora un surplus del bilancio primario, col 2012, abbiamo un buon gettito delle entrate tributarie. Ci spiegheresti il bilancio primario? Al netto, diciamo così, il bilancio dello Stato al netto della spesa in interessi, basta capire questo, perché togliamo la spesa in interessi sul debito, che è la voce che continua a pesare di più sui nostri conti, ecco qui stavo arrivando. Se andiamo a prendere questo aspetto, vediamo che l'Italia è un paese che, diciamo così, tiene sotto il profilo dei conti, ma ha un debito che richiede una spesa in interessi che ci sta uccidendo. Allora, qual è il punto? Saccomanni ha ragione nel dire che attualmente non esiste un vero problema di tenuta dei conti pubblici, ma guardando avanti il problema esiste. Per quale motivo? Perché siamo un'economia in recessione, perché abbiamo la disoccupazione che è tra le 3 più alte d'Europa, veniamo dopo la Grecia e la Spagna, quindi sicuramente non è una situazione allegra, e attualmente non abbiamo in essere dei piani di rilancio economico né italiani né europei che a breve ci permettano di guardare avanti con serenità. Allora qual è l'orizzonte di cui dobbiamo preoccuparci? Beh, come lo stesso appunto governo Saccomanni, ma come ripetono un po' tutti, è quello che va nel medio-lungo periodo, cioè mentre gli altri paesi si stanno attrezzando, vedi anche la Spagna, con riforme che riguardano il mercato del lavoro, in alcuni casi riguardano il sistema fiscale, ma fanno riforme. Riforme che non sono state, possiamo dire, promesse all'Europa. Che differenza fa promettere agli elettori o all'Europa? Sono promesse che abbiamo sentito noi in casa per tanti anni. Quindi in questi anni. 5 mesi noi abbiamo visto qualche riforma di questo tipo? Beh, noi abbiamo visto passi importanti. Pensiamo ad esempio alla riforma delle pensioni, c'è stata quella Fornero, l'avvio di un primissimo cantiere sul mercato del lavoro, che noi sappiamo ancora che per la flessibilità in entrata ancora grossi problemi. Quella della Fornero ha creato gli esodati però. Esattamente, però voglio dire, non è che esattamente ha creato gli esodati già c'erano, ha creato una particolare tensione sugli esodati, però non, ripeto, ci sono stati dei passi buoni che, diciamo così, si muovono nella giusta direzione, però il paese ha bisogno di un cantiere molto più vasto ed un cantiere che deve guardare a che cosa? Alla competitività delle imprese. Se le imprese non assumono, non c'è lavoro e non c'è ricchezza. Non possiamo pensare che venga dal cielo o dall'Europa soltanto la ripresa. Allora, per ritornare alla tua domanda iniziale, commissariamento sì, commissariamento no. Io vorrei, diciamo così, gli ascoltatori rassicurare su un punto. Nel momento stesso in cui abbiamo firmato dei trattati europei, noi abbiamo rinunciato a una parte della nostra sovranità. Perché? Perché secondo il principio che in inglese si chiama accountability, cioè tu fai quello che prometti di voler fare, devi dimostrare all'Europa di stare all'interno di certi parametri, deficit PIL, il debito. Ecco, allora, già questa è una forma, chiamiamola così, non di commissariamento, ma di responsabilità che abbiamo verso terzi. Il commissariamento vero e proprio, stile Grecia, c'è nel momento stesso in cui si va in default. Noi non siamo nella condizione di andare in fallimento. Quindi posso andare a letto tranquilli più tardi. Ma non c'è, ma guardate, in realtà, per esempio, gli emissari del Fondo Monetario Internazionale sono in Italia dal 2011. Cioè, noi siamo già osservati come un fattore speciale. Un grande fattore di rischio. Se in una casa c'è qualcuno che tiene sempre i rubinetti dell'acqua aperta, prima o poi si allaga. Senti, allora però Alessandro, devo chiedere una cosa di economia che pare più spicciola ma di estrema importanza perché riguarda tutta la collettività. Allora, si era detto fino a pochi giorni fa che avrebbe trovato le coperture per evitare l'aumento di un punto percentuale dell'IVA dall'aumento della benzina e dagli anticipi sulla benzina, IRES e IRAP. Allora, poi con tutta questa crisi di governo invece il Consiglio dei Ministri è saltato sulla questione dell'IVA e si dice bene, sarà inevitabile, si pagherà l'IVA. Allora dice va bene, si paga l'IVA, però cosa si scopre? Che c'è l'aumento dell'IVA ma c'è anche l'aumento della benzina da domani. Perché la componente di IVA che si applica alla benzina. E quella componente alzandosi alza il prezzo della benzina. Un po' di fregatura sotto. Sì, ma comunque siamo sempre, diciamo così, il problema è sempre lo stesso. Si illudono spesso gli italiani dicendo non vi facciamo pagare l'IMU, rinviamo l'IVA, ma da altre parti devono entrare quei soldi, per cui comunque sia il saldo deve tornare a zero. Allora, se tolgo da una parte devo mettere dall'altra. Il problema vero è che troppo spesso si dice agli italiani non ti faccio pagare per 3 mesi, sì, ma dopo che facciamo? Ricominciando da capo. Ecco, siamo un po' stufi, diciamo, di queste promesse così a fondo perduto. Ma sì, io credo che insomma la questione vera sia proprio quella di creare le condizioni affinché non ci siano gli aumenti dell'IVA. E questo è un problema che riguarda il Parlamento e poi se si voterà, chi voterà il prossimo Parlamento. Senti, a proposito di creare le condizioni, che condizioni avete creato per quale pagina che vi sia domani di titoli di cose sul Sole 24 Ore? Domani è un ricchissimo giornale. Accidenti. Un ricchissimo giornale perché partendo un po' dagli eventi di politica e di mercato, cioè quello che sta succedendo in Italia e le reazioni dei mercati, abbiamo costruito 8 pagine, sono 4 dedicate ai mercati finanziari, con non soltanto gli aspetti più di cronaca, chi ha vinto e chi ha perso in borsa oggi, ma soprattutto come comportarsi non solo nei confronti del mercato italiano, cioè quali titoli resistono meglio alle tensioni di carattere politico e soprattutto come anche investire sul mercato americano, perché bisogna ricordare che più della metà del risparmio degli italiani è investita a Wall Street, per cui abbiamo dedicato una parte di questo speciale sul risparmio proprio al come investire sulla borsa americana in questo momento che, come leggerete sui giornali domani, anche loro hanno i loro problemi nel farsi approvare. Entro mezzanotte, sembra, la legge di stabilità. Difficilmente, sì, sostanzialmente loro devono approvare un'estensione di quanto il governo ora può spendere, perché oltre il deficit, e poi, di qui a qualche giorno, anche il livello di debito che il governo americano può contrarre. Altrimenti, di qui ai prossimi 20 giorni, a scaglioni, si taglieranno i pagamenti a una parte del, diciamo così, dell'esercito, una parte della sanità. Mamma mia, la situazione globale è veramente sconfortante. Ma lì è un problema politico più che finanziario. Braccio di ferro tra democratici e repubblicani. Caro Alessandro Pratenotti, io so che tu devi finire di chiudere il giornale, quindi ti ringrazio moltissimo. Ma grazie a voi. Ti saluto e ti aspetto domani sera. Allora. Senz'altro. Ciao Alessandro Pratenotti, vice direttore del Sole. Ciao. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. 60 minuti che stanno scorrendo. Vi ricordo allora a questo punto i titoli principali. Assemblea questa sera c'è stata di Berlusconi con gli altri esponenti del PDL, parlamentari e ministri. Berlusconi dice: è stato tutto chiarito, diremo di sì ai decreti su IMU e IVA, però poi la nostra esperienza governativa finisce qui. Situazione difficile, incertezza politica, quindi Piazza Affari reagisce chiudendo in rosso con un meno 1,2%. Ci sono dei timori, l'Europa ci sta guardando e anche le agenzie di rating ci sono timori per un declassamento dell'Italia, e così anche industriali e sindacati invocano la stabilità di governo. Sentenza d'appello per l'omicidio di Melania Rea. Parolisi è stato condannato a 30 anni. La Coca-Cola perde lo scettro, Apple è il marchio più influente nel mondo. C'è anche naturalmente spazio per un po' di sport a questo punto. Con il nostro Dario Ricci che è qui in studio. Caro Dario, c'è una storia, storia che non si sapeva bene se... scusa un attimo, vediamo su Piazza Pulita di alzare, perdonami che... 150 milioni di euro alla CIR. Il 9 luglio 2011 stanno ricostruendo la storia del ribasso, ma del lodo Mondadori a Piazza Pulita, questo sulla 7, doveva esserci la telefonata intercettata questa sera di Berlusconi, ma l'ultima udienza è del 26 giugno 2013. C'è la ricostruzione della vicenda che avete sentito più volte, quindi riabbassiamo. Dario Ricci, scusa, stavo dicendo. Poi domani c'è il Milan, quindi magari anche il presidente prende un po' di respiro insomma, vedremo. No? Vediamo i risultati del Milan. Invece del Milan, passiamo a Brescia. Che ha una storia veramente bizzarra per quanto riguarda il suo allenatore. Pare che si siano rivolti anche a chi l'ha visto. Era sparito così per due giorni, nessuno sapeva dove fosse finito. Com'è andata questa storia? Sì, il Brescia praticamente in una settimana ha cambiato quattro allenatori. Però... perché quindi insomma, considerando i giorni di riposo, siamo quasi uno al giorno. Perché sapete bene la storia di Marco Giampaolo, allenatore dall'inizio di questa stagione del Brescia, poi esonerato, ma che per due giorni di fatto aveva fatto perdere le sue tracce, tant'è che si era mosso proprio la trasmissione Chi l'ha visto. Fortunatamente prima della partenza della troupe Giampaolo ha dato segni di vita. Giampaolo era... di cognome. Sì, Marco di nome, si era rifugiato al mare perché stressato, spinto all'abbandono della panchina da parte anche degli ultra bresciani. E allora al suo posto nell'ordine prima Fabio Micarelli, poi Gigi Maifredi, personaggio molto amato del nostro calcio, che aveva vissuto una stagione straordinaria al Bologna, una poi molto meno fortunata a inizio degli anni 90 alla Juventus, prima di un lento ma costante declino. È arrivato sulla panchina giusto una giornata, sabato scorso, il tempo di prendere due gol a Latina, il KO, e adesso al posto di Maifredi è arrivato Cristiano Bergodi, ex difensore di Lazio e Pescara, allenatore anche proprio dei pescaresi l'anno scorso nella sfortunata annata in Serie A. Secondo te cosa hanno? Un presidente un po' volubile o proprio questa giostra impazzita? Come mai non ne va bene uno? Ma diciamo che il caso Giampaolo è stato sicuramente eclatante nelle sue modalità. I passaggi con Micarelli e poi con lo stesso Maifredi sono stati due passaggi tecnici, insomma, si sapeva. Scusami Dario, ti devo interrompere, no, rialziamo Piazza Pulita un attimo sulla sette. Questa forse è la telefonata intercettata. Peter Gomez, a rilievo secondo te questa telefonata e perché potrebbe averla? No, a rilievo, un rilievo politico enorme. Peter Gomez, direttore del quotidiano Il Fatto Quotidiano.it, però erano proprio quattro parole che ci siamo persi sugli allenatori del Brescia, ma insomma più ne avremo poi contezza, come si dice domani. Ecco, diciamo, il mistero del Brescia ancora ci attanaglia. Sì, insomma, adesso c'è un allenatore, Cristiano Bergodi, oggi ha diretto il primo allenamento, quindi insomma questo nodo dovrebbe essere sciolto, se in modo positivo lo dirà il campo, così come il campo sta dicendo, Roberta, che il Parma è in vantaggio sulla Fiorentina nel posticipo del lunedì della sesta giornata di Serie A alla fine del primo tempo, 1-0 a Firenze per i gialloblu, il gol di Gargano al 46esimo, un sinistro velenoso deviato da Rodriguez alle spalle del proprio portiere Neto. Staremo a vedere se Viola riusciranno a recuperare. Caro Dario Ricci, io ti ringrazio. Ma grazie a voi. Poi ci saranno gli aggiornamenti del calcio nelle prossime edizioni. Notte. Mi sono trovato bene, ripasso. Ti dice, non ti sei assopito, ti vedo bello sveglio, quindi l'effetto è buono. Grazie. Ciao Dario Ricci. Ciao. Ciao. Altro ospite, parliamo di un'altra notizia del giorno. Si è decisa la data per la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, di Giovanni Paolo II. E quindi ci aggiorna su questo Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Carlo, sì, buonasera a voi. Era nell'aria da tanto tempo questa cosa, sono due papi molto amati, chi più uno, chi più l'altro, insomma, però almeno si è deciso. Ci sarà e che giorno ci sarà questa canonizzazione? Il 27 aprile, una data anche importante perché c'è una festa religiosa istituita proprio da Wojtyla anni fa, quando era papa, e quindi il 27 aprile è una data simbolica. La misericordia, la festa della misericordia. Esattamente, diciamo così, sono due papi che in qualche modo più di tutti gli altri stanno segnando un po', diciamo, il cammino di questo papa, cioè si ispira molto all'opera di questi due papi, Bergoglio, uno Roncalli, appunto il papa buono, il papa della gente, della pace, l'altro più un leader, anche se santo, diciamo entrambi santi, però appunto con due cifre molto diverse, però allo stesso tempo di grande impatto popolare, e quindi è evidente che il fatto di farli insieme papi è estremamente significativo. Leggevo tra l'altro che ci sarà anche un musical che si intitola Non abbiate paura, la famosa frase, slogan di Papa Wojtyla. Sì, no, che famosa, diciamo, sì esatto. C'è questo musical. Questa cosa dei musical ispirati a cose religiose aveva preso piede una quindicina, venti anni fa, poi era caduta in disuso e ora è tornata. Si cantava con la chitarra in chiesa, queste cose qui adesso di nuovo tornano. Sarà messa in scena durante la settimana della cerimonia in cui appunto Giovanni Paolo II sarà proclamato santo dalla Chiesa. Senti, poi un'altra notizia di oggi, sempre in ambiti ecclesiastici vaticani, questo consiglio dei cardinali, che cos'è esattamente? Questa è una decisione presa da Bergoglio un mese dopo essere stato eletto, in cui disse nomine, è stata la prima decisione, diciamo, politica di governo forte, di grosso impatto, un consiglio della corona, possiamo definirlo così, di otto cardinali dei vari, diciamo, continenti, quindi l'ha pescati proprio in maniera geografica, molto per l'Italia ce n'è uno, e che lo consiglieranno su tutto, soprattutto sulla riforma della curia. Oggi, quella è stata una decisione, diciamo, orale, l'aveva detto e basta, oggi l'ha formalizzata, ha fatto un decreto che si chiama chirografo, in cui ha istituito questa commissione e si è riservato di incrementarla, di farla durare quanto vuole, perché va sempre tenuto presente che il Papa ha un potere assoluto e totale, per cui può decidere qualsiasi cosa in qualsiasi momento su qualsiasi argomento. Dico, però questi, diciamo così, hanno un segno forte perché sarà un papato ispirato alla collegialità. Lo ha detto anche nella famosa intervista a Civiltà Cattolica di qualche tempo fa, dice: io quando ero capo dei gesuiti in Argentina sbagliai perché facevo tutto di testa mia, invece è importante la collegialità. Questo è il senso forte di questa decisione, diciamo. Ecco, e poi ci sarà una commissione che parlerà delle finanze vaticane, una dello IOR, e questi viaggeranno, diciamo, in parallelo rispetto a questa commissione che invece ha più un ruolo consultivo al Papa direttamente. Quindi hai detto un papato collegiale, ma anche fattivo, mi sembra molto, molto, no? Fattivo, è vero. Sei mesi, sì, no, ma assolutamente in sei mesi. Bergoglio ha preso decisioni, diciamo così, ha questo suo impatto fortissimo sul popolo, su dei fedeli e soprattutto sui non credenti, e questo è, diciamo, il lato della fede. E poi c'è la questione di governo, cioè lui sta governando come mai era capitato negli ultimi 3-4 papati, forse bisogna risalire a Paolo VI in parte, che era un uomo di governo anche lui, perché lui sta mettendo le mani proprio dentro in maniera anche molto forte. C'è da vedere se queste cose andranno in fondo, ma è verosimile, perché poi non dimentichiamo, sembra deciso, tra 15 giorni arriva il nuovo segretario di Stato da lui nominato, che è un uomo di sua grande fiducia, giovane, e quindi verosimilmente la curia è destinata a essere rivoluzionata. Grazie Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Ciao. Grazie, Carlo, a voi. Ciao. Adesso Isotta Scenna, l'assistenza in regia, mi dice che ci dobbiamo fermare e ci ritroveremo poi tra pochissimo, sempre per ricordarvi i titoli principali.